non ho difficoltà a dire che sono stato d'accordo, e non mi capita spesso, con Fisichella su un aspetto, cioè che la bestemmia, per essere un peccato mortale, deve essere sentita e deve essere detta, non riferita. Nel senso che Berlusconi, raccontando una barzelletta... Aspetta, fai finire, Luca. Raccontando quella barzelletta, ha raccontato una circostanza nella quale il soggetto immaginario ha bestemmiato, ma non voleva bestemmiare. Cioè lei dice, Rotondi, non è la bestemmia non di Berlusconi. Attenzione. Se il mio vecchio parroco avesse ascoltato Berlusconi, lo avrebbe assolto, perché no, mancava però, l'elemento dell'intenzione. Però guardate, scusa, se andiamo a vedere poi nel merito la questione... Mancava l'intenzione, ecco, non si come dice Rotondi, Berlusconi riferisce di una barzelletta, non è lui che bestemmia. Vabbè, che impreca. Ecco, volendo, ma è come dire, ne ha appena non scritto... Un attimo, Ministro, Parenzo, che stai dicendo? Fantastico dal punto di vista dialettico quello che ci ricorda Rotondi, ma è come se io dicessi: guarda, mi è appena arrivato un messaggino di un radioascoltatore della Zanzara che mi dice, aperte virgolette, ma che cazzata ha detto Rotondi, io sto soltanto riportando il virgolettato di una persona che mi ha scritto. Rotondi, lei assolve Berlusconi allora? Voglio dire, no, io non sono in condizione di assolvere nessuno, non essendo sacerdote, dico, ma manca l'intenzione, perché riferisce una bestemmia per giunta in un contesto che è quindi uno scherzo, quindi si può ripetere, al massimo, volendo individuare il peccato, dovremmo andare a non nominare il nome di Dio in vano, e questo in generale lo consiglio a tutti i politici, perché è un peccato a doppia faccia, è un peccato religioso perché il nome di Dio va nominato il meno possibile, ed è un peccato